vive dentro me. Ultima a morire la speranza. Quando gli altri dicono bisogna andare avanti, sento la distanza tra me e quello che ho perso. I giorni passati che non tornano e non c'è verso. Ma mi rimane qualcosa per cui ancora respiro. E anche se la vita mi ha soltanto preso in giro, io continuo a credere nel suo sorriso, che è poi lo stesso che avrei avuto da bambino, ma non l'ho deciso io di scoprirlo così presto, che la gente ama soltanto se stessa ed io la odio per questo. Quell'ipocrisia che ogni cosa avvolge, piccola mia. Non fidarti di chi è troppo dolce e dice sempre sì, perché non è così che si ama. La razza umana lo scoprirai e subito l'è ruffiana. E quando crescerai tieni gli occhi bene aperti e tieni sempre a mente che io e te siamo diversi. E resta sempre pura come sei, anche se già da ora lo vedi che non è facile come vorrei. E avrei voluto che fosse la nostra vita, o almeno la tua, figlia mia, compagna, amica. Ma non ti mostrerò un mondo di bugie, né ti dirò che è giusto, e poi lo stai vedendo già del resto. Crolla la stabilità, ma non ne abbiamo poi bisogno in fondo. Quello è per chi arriva al punto del non ritorno, per chi ha detto un giorno non ne vale più la pena. Addio, levati di torno. Eppure nello sguardo tuo trovo quella forza che non avevo avuto mai, e rido insieme a te abbracciato, dimenticando i guai del passato e quelli del presente. Li sconfiggeremo insieme, noi due per sempre. Noi due, noi due per sempre. Noi due per sempre insieme, e non ci può dividere nessuna distanza. E non esiste limite all'amore che abbiamo uno per l'altra. Per questo voglio vivere, sei tu la mia speranza. Noi due per sempre insieme, e non ci può dividere nessuna distanza. E non esiste limite all'amore che abbiamo uno per l'altra. Per questo voglio vivere, sei tu la mia speranza. Da quando ci sei io ho scoperto il senso della mia esistenza che credevo inutile, ma adesso dimentico il sapore amaro se mi stai vicino. Tienimi per mano, affrontiamo un cammino pieno d'ostacoli che saranno facili da superare in due, da soli insormontabili. E porterò le immagini con me e le parole tue riecheggeranno dolci come una canzone che imparerò a memoria e canterò col cuore. Sei solo tu il motivo per cui posso sopportare le persone che tolgono il valore ad ogni cosa che faccio e leggono un secondo fine dietro ad ogni passo. Di certo perché sono loro in malafede, e piccolina imparerai che genere di gente c'è nella società del genere. Ma tu non cedere, non farti piegare, non cambiare anche se quelle sono le regole del nostro tempo falso. Sempre insieme le superiamo con un salto, e non ci credere se tutti quanti dicono male di noi è solo per un istinto disumano che si muovono tutti nello stesso modo come le pecore. E sto lontano da loro e vivrò per te. Noi due, noi due per sempre. Noi due per sempre insieme, e non ci può dividere nessuna distanza. E non esiste limite all'amore che abbiamo uno per l'altra. Per questo voglio vivere, sei tu la mia speranza. Noi due per sempre insieme, e non ci può dividere nessuna distanza. E non esiste limite all'amore che abbiamo uno per l'altra. Per questo voglio vivere, sei tu la mia speranza.